Mastro Giovanni dovrebbe essere trattata un po' diversamente dagli altri casi, perché appunto non è una, oltre ad essere una persona qualunque come gli altri casi che abbiamo visto ieri, era un attivista, un militante, e questo dovrebbe indurci, quantomeno a noi che ancora qualcosa facciamo, a un ragionamento un po' più profondo. In fondo è anche il nostro destino. E va bene, l'unica cosa che volevo osservare, ecco, che non dico solo questo, un minuto, non è, non, ecco, non cadiamo nell'inganno che siccome oggi il movimento è sicuramente infinitamente più debole di quanto poteva essere 30-40 anni fa, allora è meno controllato e meno represso. Ecco, lo ricordavo prima, in questa sala siamo molti ad avere ricevuto arresti, persecuzioni, processi, indagini, se alziamo la mano non so quante se ne alzeranno, chi ne ha ricevuti più di uno, insomma, ecco, questo assolutamente no. Per chi fosse magari esterno, ecco, per chi è dentro lo sa benissimo, non siamo mai soli, siamo costantemente in compagnia. C'è qualcuno che vuole fare qualche osservazione? Michela, vieni. Se vuoi. Probabilmente sarebbe andato come minimo qualche posto, la donna in più. Quindi il modo che quella decisione di mettere in campo, sì, buone pratiche, ma questo è un momento storico in cui le buone pratiche purtroppo non bastano. È un momento storico in cui una crisi così profonda produrrà, a meno che loro non decidano di eliminare la radice alla base, momenti di conflitto. Allora, chi vive tutti i giorni questa situazione, chi si rende conto per esperienze professionali, per militanza, per legami relazionali e affettivi, che questo sta succedendo, deve decidere che è il momento per unirci, è il momento per portare avanti motivazioni, percorsi, pratiche di lotta che siano condivise, e non per rassegnarci a semplicemente a subire e poi una volta che è successo rispondiamo attraverso delle pratiche per quanto buone, democratiche, comunque non sono la risposta. Dunque, io non parlo di carcere, non parlo di mamma, ma non serve neanche questo, e non, era semplicemente una piccola postilla all'intervento di Michela, perché faccio parte dello stesso collettivo femminista di Michela, e lei è una insomma compagna che è stata arrestata, appunto lei l'ha detto 2 mesi fa, e dietro una cosa che non si è capita, perché praticamente c'era tutta questa polizia provinciale in centro, cioè, no, voglio dire, perché se è una cosa, è vero che uno può essere arrestato per una canna, e io sono per la liberalizzazione delle sostanze, e vabbè, e quindi è una cosa brutta da condannare, è vero che uno può essere arrestato su una manifestazione e poi portato dentro perché è anarchico ed è una cosa atroce, e io sono insomma, figuriamoci, però che uno non venga arrestato sul nulla, ok? Cioè, secondo me questo è un passaggio qualitativo rispetto alle dinamiche repressive di controllo securitarie che si attivano in alcuni casi, poi sto sentendo per esempio mano a mano che noi riferiamo questo episodio, che ne sono accaduti anche in altre parti d'Italia, per cui anche raccontarcele queste cose, dirle, perché poi se non le diciamo è come sento dire qualcuno che è di sinistra, io non sono di sinistra, qualcuno di sinistra dice ma vabbè qualcosa l'avrà fatta, è evidente se l'ha presa la polizia. Ecco, io mi sono scocciata di questa. Non hanno fatto niente, stavano prendendo una birra. Adesso chiunque, no? Cioè, allora, se noi non possiamo attraversare la città, mi scuso se la gravità di questa cosa è nulla confronto a insomma alle gravità delle morti. Cioè, chi è? Sì, appunto. Ah, no. Allora, sono completamente d'accordo, no? Quindi volevo rientrare su questa cosa qui, perché siccome poi io vivo in questa città, no? Volevo contestualizzarla dentro questa città, che è una cosa che, e siccome c'è tanta gente di sinistra in questa città che attiva politiche securitarie repressive sulla nostra pelle, che sono a volte quelle stesse che parlano di riduzione del danno, prima ce lo fanno il danno e poi mettiamo 2 peccette, no? Allora questa cosa vorrei che la gente di sinistra sapesse, che anche in questa città chi non fa nulla viene arrestato, condotto in carcere e viene tenuto per 2 giorni senza dormire per terra, ok? Senza vedere l'avvocato, che sono, a quanto ho saputo, le normali procedure. Poi ci sconvolgiamo perché ammazzano la gente per 2 giorni, quindi dicevo vabbè, se si fa una cosa del genere forse parleranno per esempio del garante dei diritti del detenuto, quelle robe lì che sicuramente faranno riduzione del danno, ma siccome probabilmente ci capiterà a tutti è meglio che ci siano, insomma, no? Sono cose comunque utili e indispensabili, però era una cosa di questo genere. Cioè, dunque, sono completamente d'accordo, questa iniziativa è molto bella, i relatori per carità sono di una caratura, per cui sono felice della cosa, eccetera, però sono anche un po' indignata, perché vorrei che si parlasse di più di questa città, di quello che anche accade qui a fianco a noi, e non soltanto al migrante, non soltanto allo sfigato, non soltanto al casa anomalo, a quello che accade quotidianamente, perché se no, ecco, questa cecità che in qualche modo insomma non ci fa andare da nessuna parte, ed è la stessa cecità che pensa che possiamo andare tutti quanti allegri insieme verso una direzione che è quella di creare dei percorsi comuni, eccetera. Io non sono sicura di poter creare percorsi comuni con tutti, questo io lo dico chiaramente, io penso come come Michela, che siamo in un momento storico particolare, c'è una grossa crisi economica, che queste cose non accadono a caso e che probabilmente il nuovo welfare, che lo voglio pure io perché mica sono scemo, cioè, nel senso non è che mo non penso che la riduzione del da non vada bene, per carità, però queste cose le rimettiamo in piedi se ci guardiamo in faccia e diciamo e diamo le responsabilità a quel sindaco, caro sindaco, che si è accorto che i migranti là hanno anche qualche diritto ogni tanto, se lo ricorda pure lui, si assume la responsabilità di dire che questa è una città di merda dove si vengono applicate politiche securitarie e che portano a ledere più i diritti di tutti a partire da quel caso specifico lì. Quindi secondo me, come diceva Michela, se io sono d'accordissimo, è bellissima l'iniziativa eccetera, però se non si riparte da questa consapevolezza e da anche questa determinazione su che cosa diciamo oggi, penso che insomma un po' di percorsi si allontaneranno. Grazie. Bene, vabbè, rispetto all'iniziativa, ovviamente siamo iniziati in ritardo e lo spazio per il dibattito è breve. Comunque, se c'è qualche altro intervento, vi. Ah, Rossella. Per quanto riguarda le osservazioni sulle buone pratiche e la riduzione dei rischi, il discorso lo vediamo oggi pomeriggio. Per quanto riguarda il discorso sulla città e che le citazioni faceva Roberta, questo è stato la mia introduzione questa mattina alle 11 e la sollecitazione che ho dato ai relatori di fare un aggancio con questa cosa, e andiamo avanti con il dibattito. Se non ci riusciamo oggi, speriamo che comunque il comitato e le reti cittadine possano continuare a farlo. Rossella. No, io volevo dire un po', diciamo, riportare un po' di riflessione. Sono Rosella di Bologna, di livello 57, che ha organizzato insieme ad altre persone un'iniziativa molto simile a questa solo 15 giorni fa, all'interno di un festival. E quindi mi sembrava importante dare, insomma, i passaggi che abbiamo fatto noi qua, che comunque ovviamente si collegano, per me è anche una continuità, insomma, di discorso. Per agganciarmi a quello che ha detto subito la ragazza di prima, rispetto al discorso del territorio, siamo secondo me in difficoltà in generale, perché in generale era in difficoltà comunque qualsiasi movimento militante che c'è sul territorio italiano, in tutte le città, secondo quello che vedo io. E la repressione che c'è a Perugia non è una repressione così nuova, nel senso che voi la state vivendo adesso, ma in realtà è una cosa che in altre città, vabbè, Bologna è stata la prima, diciamo, pubblicamente a sperimentarla con Cofferati. Però anche lì, quando noi abbiamo gridato aiuto, aiuto, c'è stato visto come una cosa locale, nel senso che molte persone che invece avrebbero potuto in qualche modo contribuire a fare resistenza a questa nuova diciamo ondata di repressione proprio sul territorio, di desertificazione, di portare la gente a vedere la televisione chiusa a casa, non si esce perché si dà fastidio, se non si può bere la birra fuori il locale, insomma una serie di cose che sembrano cazzate, che però creano comunque un discorso sul territorio di deterrente della serie state a casa perché è meglio. Vabbè, comunque due esempi che io ho fatto a Bologna, che secondo me, per fare capire anche il discorso invece che si faceva prima sulla criminalizzazione delle diversità, diciamo così. Niente, praticamente a Monfalcone è successo un episodio riferito al collegamento del controllo sociale, quanto c'entra l'antiproibizionismo, riduzione del danno, o quanto c'entra rispetto al discorso del controllo sociale che sta avanzando. Cioè la legge Fini-Giovanardi praticamente è la politica che stanno facendo attualmente le istituzioni, cioè permette di fare delle retate. A Monfalcone sono andati in 27 case di notte di minorenni, li hanno presi, prelevati, portati all'ospedale e costretti a fare le analisi. Quando gli è stato detto, scusate, ma questa che operazione è? Cioè non c'è un mandato, non si può fare, è illegale. I carabinieri di Monfalcone hanno detto che è un'operazione educativa rispetto sia ai ragazzi che alle famiglie, perché devono imparare che non si consumano sostanze. Quindi voglio dire, lo stretto legame c'è proprio perché quello è un anello debole del cosiddetto, la cosiddetta persona comunque deviante, è il drogato. Poi dopo c'è il discorso dell'immigrazione, della legge sull'immigrazione, che produce anche quello un controllo sociale altissimo, e vabbè, la ex Cirelli che l'hanno detto loro. C'è un altro esempio che ho fatto là, che secondo me è molto calzante, sempre in quelle zone là, a Trieste è venuto fuori che appunto un... chi era? Il questore di Trieste praticamente ha fatto un'informativa ai suoi poliziotti dicendo che tutte le persone con queste caratteristiche fisiche, quindi siamo proprio al nazismo puro, quindi magre, con i denti non curati e non mi ricordo, e tatuaggi, devono essere, perché probabilmente c'è questa informativa, c'è, quindi devono essere controllate accuratamente e spesso all'interno del territorio. Quindi questi sono i livelli, non è che Perugia è speciale, cioè purtroppo qua le cose stanno viaggiando e stanno viaggiando appoggiandosi a dei paletti. Il prossimo potrebbe essere quello che dicevano loro, cioè la legge per il prolungamento del TSO. Perché siccome in carcere non ci stanno, facciamo degli altri lager e li buttiamo tutti là perché vanno in contromano a piedi nel corso di Perugia, che caspita ne so. Però i livelli sono questi, quindi il discorso sull'antiproibizionismo, cioè almeno noi siamo partiti da un discorso sull'antiproibizionismo che 10 anni fa era propositivo di riduzione del danno, che non l'abbandoniamo perché comunque le persone che hanno problemi di dipendenza o di consumo comunque vanno in qualche modo secondo noi aiutate, cioè un discorso parallelo diciamo, però ci ritroviamo da un discorso diciamo propositivo di andare oltre, cioè quindi depenalizzare il consumo, a un discorso difensivo perché dobbiamo appunto parlare di morti, di gente che entra in carcere perché c'è una canna in tasca e non esce più, di gente che viene picchiata dai poliziotti dicendo sei un gay di merda, marocchino di merda, cioè siamo a questi sono i livelli che si stanno sviluppando in questo territorio. Quindi sia l'iniziativa di Bologna, ma anche questa che ci sono venuta volentieri, mi sembra comunque l'intenzione di creare reti per contrastare la molteplicità di repressione sul territorio che è sulla persona fisica, che comunque si stanno accavallando. Basta. Grazie. Grazie Rossella. Ci serviva anche di uscire un attimo e confrontarci. Niente. Io direi solo che chiudo questo tavolo e diamo la parola al secondo. Se non c'è nessun altro. Il secondo lo presenta.